essere e avere. Ciao ragazze, allora oggi volevo fare un tutorial su come mi trucco quando di solito, ad esempio, mi alzo la mattina e sono più stanca del solito. Asportiamo dalla parete i chiodi e i ganci che vogliamo eliminare. Abbiamo bisogno di una catena, quindi scegliete quella che preferite, o oro o argento. Poi di anellini o moschettoni per realizzare la chiusura del braccialetto. Allora, senti, guarda, vediamo di che cosa abbiamo bisogno per fare la nostra maschera, Di nuovo in studio con Essere e Avere. Provate a digitare come fare per oppure how to su Google o su YouTube, vi si aprirà un mondo fatto di siti, video e tutorial in grado di insegnarvi a fare praticamente tutto, dalla cucina all'elettronica. La tendenza fai da te non è certo la prima volta che ne parliamo, è una delle tendenze del momento. Noi oggi ci torniamo sotto un profilo particolare, parliamo di kit mania. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dalla cucina alla moda, passando appunto per elettronica, ma anche architettura, arte, cosmesi, il mondo dei consumi è tutto un fiorire di kit, manuali, video, siti che ci spiegano passo passo i segreti di qualsiasi disciplina, ma anche prodotti progettati per essere creati, costruiti, assemblati, completati dai consumatori. Una tendenza sempre più in evidenza, spinta dai social network e dal crowdsourcing, la creazione di contenuti aperti, condivisi, partecipati, insomma, in modalità wiki, si usa dire. Patrizia. È il kit che oggi trasforma il consumatore in bricoleur, così come le stampanti 3D lo trasformano in prosumer, cioè un consumatore che produce, ma anche designer e artigiano. Il fenomeno è legato alla grande tendenza dell'autoproduzione tra risparmio e nuove progettualità espressive nell'era appunto della condivisione e della WeEconomy. Quando il kit è il carrello stesso della spesa. L'iniziativa di Hellmann's è un'iniziativa promozionale negli Stati Uniti, si chiama Ricette sugli scontrini. Ricette personalizzate per chi acquista ketchup o maionese Hellmann's nei punti di vendita, evidentemente che vendono il marchio. Fatta la spesa, arrivati alla cassa, sullo scontrino, grazie a un software che combina il codice a barre di tutti i prodotti acquistati, stampa su ogni scontrino una ricetta personalizzata che combina i prodotti del carrello proponendo piatti inediti. Rimaniamo in ambito cibo, ristorazione. Jamie Oliver, nuova catena, ha aperto un ristorante a Londra in modalità learning. Ogni giorno, cioè, propone una ricetta diversa, per esempio anche cose semplici come la focaccia. Offre tutte le materie prime, le mette a disposizione dei clienti che diventano dei cuochi, fanno un'esperienza assistita evidentemente dallo chef per poi consumare il piatto prodotto. Un'esperienza di apprendimento sul campo con il kit fornito da utilizzare lì.